Resto Radio Convento per raccontarsi, per raccontare. E benvenute ragazze, noi siamo nel confessionale di Grande Sorella e voi siete con la Grande Sorella, la Vale. E io sono in compagnia della sposa, che si chiama? Federica. E le amiche? Maria e Giada. Allora Federica, siamo qui per intervistare te. Adesso sono problemi secondo me. Sei pronta? Guarda come se la ride. Allora, innanzitutto come procede la serata? Bene, finora. Perché le tue amiche mi hanno chiesto delle domande un po' piccanti da farti. Esatto. È vero? Esatto. Adesso molto devi vedere piccante. Tu come mi devi rispondere. Innanzitutto come si chiama lo sposo? Facciamo così. Daniele. Allora, quanti anni ha? Più o meno la tua età? Sì, okay, stesso anno. Coetanei, ok, perfetto. Allora, siete più o meno curiose della sua posizione preferita, vero? Sì, mi avete chiesto. Curiosa. Adesso mi devi dire la tua posizione preferita. Le tue amiche me l'hanno chiesto prima espressamente. Quindi te la prendi con loro dopo non io commento. Sopra. Ah, ma sei fantastica, me le pressi stasera per uscire con... Se vuoi puoi toccarle. Sono fantastica. Ah, no, vabbè raga, non potete capire. Ha rifatto il seno solo per stasera. Esatto. È fantastica. E mi raccomando, quando vai a casa da Daniele, portati queste. Ovvio. Certo, certo, le porto a casa. Come minimo. Ovvio. Così provi un'altra sensazione. Ovvio. ragazze, avete bisogno di fare qualche domanda alla sposa? Siete pronte? Sì, pronte. Via. Sei sicura di sposarti? Certo, certamente, perché lui è Delio. Com'è lui? Questa è una bella storia da raccontare. No. Io adesso sono curiosa, dai, adesso lo dici. Spiega. Cosa vuol dire che è Delio? No, è Delio, it's a state of mind. È un... Com'è? È un aggettivo, perché è la perfezione. Se uno è perfetto, è il tuo uomo, si chiama Delio. Delio? Sì. Ah, da bene. Da aggiungere al vocabolario. Sì, sì. E infatti me lo devo segnare questo termine. Questo è un termine. Delio. No, perché le sento di tutti i colori qui dentro, ma questo mi mancava. Se l'hai scritto sul braccio? Delio. Però al giorno del matrimonio lo puoi rifare. Sì, scritto Delio. Sì, lo rifaccio. Perché è giusto. È proprio innamorata. È innamorata? Da quanto tempo sei con Delio? Sei anni. Sei sicura? Un po', però. Ci ha pensato, raga, non è sicura. Sei sicura? Sei. Facciamo il conto. Sei sicura? Sei ad agosto. No, raga, adesso sei. Perché mettete in dubbio questa cosa? Sei ad agosto. Giuro. Confermate? Giuro. Confermano. È giusto. Giusto. Sei lucida comunque. Oh, che faccia. Allora, di dove sei? Montichiari, ah, qua vicino. Comodo. Comodissimo. Pure per tornare dopo a casa, comodissimo. Sì. Comodo. Ma c'è Daniele che ti aspetta a casa? In teoria sì. Sì. In pratica non lo so. Beh, può essere che sveglio, dorme. Questa è la pratica, la teoria che non sai. Che non ci sia. Ah, questo è un problema, Vabbè, può essere anche che ti aspetta per festeggiare una notte fantastica. Può essere, vedremo. Può essere. Ti saprò dire dopo. Può essere che ti vede così con queste due bocce e dice adesso vieni qua che festeggiamo. Può essere. Tu sei pronta? Prontissima. Dopo una serata del genere? Ovvio, prontissima. Prontissima. Ma non hai trovato nessun figo? Non hai trovato nessun figo stasera? Qualcuno? Pochi. Perché Delio è Delio. Vabbè, ma non ho detto che devono essere perfetti. Però figo. Ammettilo, dai, tanto rimane qui. C'è qualche figo. Allora, no. ti comunico che le ragazze prima mi hanno detto del nostro butta fuori, che figo. Non l'ho neanche visto. Vedi come lei l'ha notato anche lei? L'occhio no, buono cane. Io no. Non ce l'ho nei paraggi, altrimenti te l'avrei fatto vedere. Ma penso che dopo te lo fa notare lei, perché si fa notare. Vado a cercarlo allora. Vai. Vado a cercarlo. Però non dire che te l'ho detto io. No. Dici, delle ragazze mi hanno consigliato di venirti a vedere. Ho l'elenco delle cose da fare. Una esatto. è i muscoli a qualcuno per cercare il buco. Però il più muscoloso qui sei tu, dici. Perfetto. Quindi devo palparti. Sì, sì. Va bene, vai allora, mi fai sapere. Va bene, ti lascio una buona serata. Ciao ragazze. Ciao.